stato l'esecutore degli attentati ai Magis Calabria. Industria ad agosto ordinativi più 32,4%, record dal 2001, sale anche il fatturato. Riforma della giustizia, il ministro Alfano a Catania, riformeremo la Costituzione. Rifiuti a Terzigno, ancora tensioni. Buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio, in primo piano a Reggio Calabria, ma subito un aggiornamento da Bari, dove, come vi abbiamo riferito nel corso della precedente edizione, è crollato il solaio di una palazzina in pieno centro, in via Sagarriga, Visconti 227. Alessandra Tedesco ha contattato i vigili del fuoco. Stanno ancora operando, sembra che non ci sia nessuno all'interno, Ho pulso il condizionale, quindi sembra che non ci sia nessuno all'interno. Mi può dire che cosa è accaduto? È un crollo di un solaio interno di uno stabile di due piani in pieno centro a Bari. Inizialmente ci è arrivata la segnalazione per esplosione, ma sembra che questa esplosione non sia avvenuta. Quindi non si conoscono le ragioni al momento, no, perché sono tutti sul luogo, comandante, direttore generale, quindi stanno tutti verificando cosa sia successo realmente. Ma la palazzina è pericolante? Ma penso proprio di sì, Penso proprio di sì. Noi non siamo sul luogo, però a causa il solaio ha ceduto, quindi sicuramente è pericolante. Era un palazzo in ristrutturazione? Sembra di sì, però ripeto, non abbiamo dati precisi perché non riusciamo a contattare le squadre sul posto. Quindi mi può dire che all'interno non c'era nessuno? Al 99% non c'è nessuno, perché non era una palazzina abitata, ecco perché. Era in disuso, quindi si può pensare a qualche eventuale operaio, però non hanno fatto delle verifiche, non c'è nessuno, però tra breve sapremo con certezza se all'interno non c'è nessuno o meno. A Reggio Calabria adesso, dove è finito in manette l'esecutore materiale degli attentati contro i magistrati. Noi siamo in collegamento con Reggio Calabria con il nostro Filippo Veltri. Buona giornata Filippo. Buona giornata a voi. Filippo, ripercorriamo innanzitutto la vicenda, quali sono stati gli attacchi ai magistrati, poi discutiamo di questo arrestato e dell'importanza di questo arresto. Ascoltiamo insieme. 3 gennaio, domenica mattina, un ordigno ad alto potenziale costruito artigianalmente con dell'esplosivo e una bombola a gas viene fatto esplodere davanti al portone della Procura Generale di Reggio Calabria. Il procuratore generale Salvatore Di Landro parla subito di un grave atto intimidatorio da parte della criminalità organizzata. Il 21 gennaio, nel giorno della visita del presidente Napolitano in città, lungo il percorso seguito dal corteo presidenziale viene trovata un'auto piena di armi. Nei mesi successivi buste con proiettili e minacce di morte vengono inviate tra gli altri al procuratore capo Giuseppe Pignatone, ai PM Lombardo e De Bernardo. Fino alla notte tra il 25 e il 26 agosto, quando il bersaglio del nuovo attentato diventa lo stesso procuratore generale Di Landro. Questa volta la bomba viene fatta esplodere davanti al portone della sua abitazione. L'esplosione manda in frantumi i vetri delle finestre della casa del magistrato e di altre abitazioni vicine. Nessuno rimane ferito. Il 5 ottobre scorso, dopo una telefonata anonima di minacce contro il procuratore Pignatone, viene trovato un bazooka davanti al Tribunale di Reggio Calabria, sede degli uffici della DDA. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora Filippo Veltri, questi gli attentati che avevano creato un clima di forte tensione, poi c'è stata la collaborazione di un importante esponente dell''Ndrangheta e stamattina questo arresto. Ci puoi dire di chi si tratta dell'arresto di stamattina e quali soprattutto saranno le conseguenze, Filippo? Sì, allora bisogna fare due passi indietro, cioè il pentimento del boss Nino Lo Giudice, che è uno dei capi riconosciuti dell'omonima cosca, e ancor prima di un suo luogotenente che fece arrestare proprio Lo Giudice. Lo Giudice è stato interrogato dal procuratore Pignatone e dal suo vice Prestipino la scorsa settimana a Re Bibbia a Roma, ha cominciato a parlare ed ha fatto il nome di questo signore che è un commerciante di frutta e verdura abbastanza noto a Reggio Calabria, titolare di una profumeria nel centro. E Lo Giudice ha riferito che questo aveva il compito di tenere in ordine armi ed esplosivo. È stata fatta una perquisizione a casa sua, lui non c'era perché era partito per l'est europeo e questa mattina è stato infatti fermato e bloccato al confine con la Slovenia. Il suo avvocato ha fra l'altro detto che Cortese era pronto per costituirsi. Sull'attentato a Di Landro e sul ritrovamento del bazooka non indaga la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ma quella di Catanzaro, per competenza territoriale. E questa mattina il procuratore della Repubblica Lombardo ha detto che per il momento questo signore, questo Cortese, è indagato solo per il bazooka. Per le altre cose si sta vedendo, ma è di tutta evidenza che la cantata, diciamo, la confessione del boss Nino Lo Giudice incastra Cortese per tutti e tre gli accadimenti. Quello Filippo, ma poi è appunto, che cosa potrebbe succedere adesso? Beh, potrebbe succedere che innanzitutto Cortese al momento è stato fermato per associazione mafiosa, sarà ascoltato dai magistrati di Catanzaro e soprattutto quello che più incuriosisce al momento è il motivo per cui Lo Giudice e Cortese, per conto dello giudice, hanno messo in atto questa strategia terroristica contro Di Landro prima e contro Pignatone poi. Grazie a Filippo Veltri per questi aggiornamenti dalla Calabria. Noi parliamo di dati economici da studio. Ad agosto, decisa crescita di ordini e fatturato nell'industria. Agosto, dice l'Istat, si è confermato un mese buono per l'industria. Gli ordinativi hanno segnato un rialzo record dal 2001, più 32,4% rispetto a un anno fa. Il fatturato è salito di oltre il 17%. Sentiamo Giampaolo Oneto, direttore delle statistiche economico-congiunturali dell'Istat. Gli ordinativi sono particolarmente positivi, vanno presi con prudenza non tanto perché sia agosto, ma perché bisogna ricordare che l'agosto scorso, con cui si fa il confronto, era ancora un momento in cui gli ordinativi in particolare avevano segnato un livello molto molto basso, mentre invece, diciamo, è decisamente più netto il segnale sul fatturato, perché lì vediamo che c'è una tendenza che continua, una tendenza positiva che continua mese dopo mese. Il mercato nazionale è un po' meno vivace di quello estero. Il mercato estero tira molto, il mercato interno invece è decisamente più lento. Questi dati di agosto mostrano che l'Italia sta ripartendo dopo la crisi? La risalita c'è, è netta e fino ad agosto si conferma, però è ancora lontana dai livelli pre-crisi. Giovanni Bracco da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E le imprese italiane rialzano la testa dopo la crisi e noi ogni giorno vi raccontiamo le loro storie. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2010 il gruppo Lint ha realizzato nel primo semestre una crescita significativa di circa il 9%. Lint Italia in questo contesto è cresciuta di circa il 6% e Caffarel di circa il 5%. L'anno scorso il gruppo ha registrato un calo di circa il 2%. Dietro i numeri a parlare è Antonio Bulgheroni, in qualità di presidente di Lint Sprungli S.p.A. Italia e Caffarel S.p.A. e sottolinea l'importante ripresa per lo storico gruppo specializzato in prodotti dolciari e cioccolato. La Svizzera Lint nel 97 ha infatti acquisito il marchio piemontese Caffarel, fondato nel 1826, inventore del famoso gianduiotto. Oggi i cioccolatini Caffarel raggiungono ben 36 paesi esteri. Ecco le leve strategiche. Noi abbiamo sicuramente voluto riconfermare la qualità, abbiamo voluto fare delle innovazioni di prodotto e abbiamo ovviamente sperato che la fiducia dei consumatori ritornasse ai livelli precedenti. Il test è Natale. Per tutto il gruppo, che negli ultimi 4 mesi dell'anno fattura circa il 40% di tutto fatturato del gruppo, sono cruciali. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di riforme adesso. Nel pomeriggio un incontro importante sulla riforma del fisco. La riforma fiscale muove i suoi primi passi. Nel pomeriggio, primo giro di tavolo tra governo e parti sociali. Obiettivo arrivare entro un mese alla presentazione nel Consiglio dei Ministri della legge delega di riforma. Il premier Berlusconi e il ministro dell'Economia Tremonti illustreranno oggi le linee guida. Poi la riforma si costruirà sui tavoli tecnici. In primo piano, famiglia e lavoro. Parola d'ordine, semplificazione. Con l'accorpamento dei 241 regimi di esenzione e agevolazioni esistenti che i contribuenti ricevono sia dall'INPS che dal fisco. Quanto al lavoro, si valuta la possibilità di aumentare la detassazione a carico della parte variabile del salario e quella legata alla maggiore produttività. Spingeremo perché sia una riforma vera, ha auspicato la leader di Confindustria Marcegaglia, ribadendo che la priorità è l'abbassamento della tassazione sulle imprese e sui lavoratori, mentre CGIL, CISL e UIL, su questo uniti, chiedono di tagliare le tasse a dipendenti e pensionati. La riforma fiscale ci sarà, ha risposto il ministro del lavoro Sacconi. Siamo tutti d'accordo sulla riduzione delle imposte, ma tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di giustizia intanto ha parlato il ministro Alfano a Catania. Niente ritorsioni sui magistrati, saranno più autonomi, ha detto in merito alla riforma, chiarendo che il governo su questo tema comunque non cadrà. Così il ministro Calderoli questa mattina su Canale 5. Io credo che non sia cambiato assolutamente nulla e che quello che può far più male al governo e anche al paese è la mancanza di chiarezza. Quello che io avevo chiamato trampolino doveva mettere da parte proprio le questioni personali e fare accordi seri sulle questioni politiche, però non ho sentito nessuno dei due interlocutori, né Fini né Berlusconi, rispondere. Senza questo chiarimento, francamente, io non vedo grosse prospettive. Quindi la chiarezza di andare avanti, ma non sopravvivere, ma vivere e far bene, oppure conviene andare al voto. Il fronte proteste adesso nel napoletano per i rifiuti. A Terzigno i residenti sono ancora in piazza e ci sono delle barricate contro la discarica Sari di Terzigno anche a Bosco Reale. Il procuratore di Napoli Lepore ha ribadito il carattere spontaneo della protesta e la mancanza di prove su ogni coinvolgimento di elementi camorristici, ma non ha escluso la strumentalizzazione di questa protesta da parte dei centri sociali. Paolo Picone ha raccolto la voce di una delle manifestanti. Non li vogliamo gli inceneritori, si deve fare la raccolta differenziata, si deve il riciclo della carta, il riciclo della plastica, come tutti ben sanno. Noi siamo d'accordo a farlo, il problema è che chi ci governa non la vuole fare, non so perché, da chi dipende o a chi fa più comodo. Ecco, noi abbiamo ormai il primato per la discarica più grande del mondo. Ormai ci hanno ucciso, siamo giovani e nel nostro paese ci hanno tolto tutto. E sui rifiuti il problema principale è quello dei costi e benefici nelle pratiche di smaltimento, e questo è il tema di una ricerca commissionata dalla CONAI, il consorzio nazionale che si occupa del riciclo e del recupero degli imballaggi, che sarà presentata domani in un convegno a Milano. Alessandra Scaglioni ha intervistato Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Alteis Strategic Consultant. Quali possono essere le soluzioni migliori per lo smaltimento dei rifiuti? Sicuramente in cima collochiamo il riciclo, che significa recuperare tutti quei materiali che è possibile reimpiegare nei processi produttivi. In secondo luogo quelle soluzioni che permettono di ridurre al minimo il ricorso alla discarica e quindi in primo luogo il recupero energetico, cioè la termovalorizzazione. Un ruolo importante lo hanno anche le politiche di prevenzione, cioè la riduzione a monte nella produzione dei rifiuti, che significa ridurre la quantità di beni che consumiamo e che smaltiamo senza averli utilizzati in pieno. Un esempio? Un esempio è lo spreco alimentare nel cibo. Una quota importante del cibo che noi acquistiamo in realtà non viene consumato, ma finisce nella spazzatura. Si stima fino a un quarto. Questo ha non solo impatti ambientali e economici rilevanti, ma, come facile intuire, anche sociali e morali importanti. E resta attesa la situazione a Cagliari, mentre il Movimento Pastori Sardi continua ad occupare la sala della Commissione Bilancio nella sede della Regione. Oggi il Consiglio regionale dovrebbe votare sui provvedimenti per la pastorizia. E della crisi della pastorizia si parla anche a Roma, al Ministero delle Politiche Agricole, in un incontro fissato per le ore 15. 'Ndrangheta ha arrestato l'esecutore degli attentati ai magistrati di Reggio Calabria. Industria ad agosto ordinativi più 32,4%, record dal 2001, sale anche il fatturato. Francia, le proteste proseguono, scontri a Lione. Calcio Champions stasera tocca all'Inter. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Dunque, in questa seconda parte, in primo piano, in Francia, dove le proteste contro la riforma delle pensioni vanno avanti e ci sono state questa mattina degli scontri a Lione. Una cosa è certa, ci sono disagi per gli automobilisti e non solo, perché iniziano a scarseggiare le scorte di carburante. Le auto arrivano, rallentano e non appena vedono il cartello carburante esaurito, ripartono facendo inversione. La sequenza più comune che si può osservare nei distributori francesi riassume la situazione della protesta meglio di molte analisi. A causa del blocco delle raffinerie, infatti, un terzo dei distributori è a secco. E mentre il governo transalpino ha inviato questa notte la polizia a sbloccare 3 depositi di carburante, promettendo tra l'altro di riportare la normalità entro 4 oppure 5 giorni, i francesi continuano la caccia al pieno. Una caccia che è anche virtuale, ovvero è fatta di forum e siti internet, ma soprattutto reale. Anna, ad esempio. Je suis presque à sec, ça fait deux stations. Sono quasi a secco, sono già passata in due distributori in vano, dice. Ma per Arnaud la situazione è ancora più difficile. On a plus d'essence, on a fait 6 stations. Non ho più benzina, sono passato in 6 distributori del quartiere, sono tutti a secco. Non mi resta che riportare la macchina in garage e tornare a casa a piedi. Igor Fiatti, Radio 24, Sole 24 Ore, Parigi. Francia in piazza contro la riforma delle pensioni. L'Europa intanto oggi discute di durata minima del congedo di maternità. Le novità proposte le ascoltiamo in questa scheda. 20 settimane a stipendio pieno, 2 settimane di congedo per i papà per potersi godere i primi giorni del figlio, pagate anche in questo caso a prezzo pieno. La direttiva, che dovrebbe sostenere in maniera più robusta le famiglie, prevede anche il diritto ad essere reinserite nello stesso posto di lavoro e il diritto della mamma a chiedere una modifica dell'orario e delle modalità di lavoro, ma senza l'obbligo per il datore di lavoro di accettare la richiesta. Così come è stata presentata, la nuova direttiva si aggirerebbe attorno allo 0,2% del PIL per gli Stati membri e l'introduzione soprattutto di 2 settimane di congedo di paternità costerebbe circa lo 0,02% del PIL, dati che sono stati già quantificati da alcuni paesi e significherebbero di fatto per la Germania una spesa di 1,9 miliardi di euro in più all'anno e per la Gran Bretagna di 1,7. Le cifre certo spaventano e frenano riforme che vanno a incidere su un settore, quello del futuro dei nostri figli, difficile da monetizzare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Sole 24 Ore. In Gran Bretagna Cameron tra breve presenta ai comuni le misure di austerità contro la crisi. Non è solo un piano severo, è il più duro dal dopoguerra a oggi. Del resto il deficit ammonta a 156 miliardi di sterline e le misure studiate, pari a 83 miliardi, assieme a un aumento delle tasse, dovrebbero non solo cancellarlo, il deficit, ma anche ridurre il debito. Ogni ministero subirà un taglio del 25%, mentre i posti di lavoro da sacrificare sono poco meno di 500.000, oltre al congelamento degli stipendi nell'amministrazione per 2 anni. I tagli andranno alla difesa, al dicastero della giustizia e degli interni, passando per l'educazione e la ricerca, fino alla BBC. Della difesa ha già parlato il primo ministro, i fondi subiranno un ridimensionamento dell'8% nei prossimi 4 anni, il che si tradurrà in meno uomini, riduzione dell'artiglieria pesante, riduzione della flotta e rinvio dell'ammodernamento dei sottomarini nucleari. Le università dovranno fare a meno di una somma compresa tra i 4 e i 5 miliardi di sterline. A oggi i fondi ammontano a 11 miliardi. Taglio in arrivo anche per i child benefits, il contributo versato ogni settimana alle famiglie con figli. Quelle con un reddito superiore ai 50.000 euro l'anno ne faranno a meno. Sotto la scure anche la BBC, con un congelamento del canone per 6 anni e la fine del finanziamento del World Service dal Ministero degli Esteri. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pensate in un governo per la etapa che tenemos por delante, fortalecido políticamente para cumplir con las reformas. Siamo passati dall'Inghilterra alla Spagna, lo avete sentito, sarà un governo abbastanza forte politicamente da poter affrontare le riforme che ancora ci prefiggiamo. Con queste parole il premier socialista Zapatero ha annunciato oggi un profondo rimpasto di governo che prevede fra l'altro l'uscita dall'esecutivo della numero 2 Maria Teresa della Vega e del ministro degli esteri Moratinos. Saranno sostituiti da Alfredo Rubalcaba e da Trinidad Jiménez. Zapatero ha anche annunciato uno snellimento dell'esecutivo con l'abolizione di 2 ministeri, quelli della casa e dell'uguaglianza. Meno di 2 settimane alle elezioni americane di midterm, con i sondaggi che indicano i repubblicani ancora in vantaggio sui democratici. Secondo l'ultimo sondaggio della CNN, se si votasse oggi, 48 elettori su 100 sceglierebbero un candidato repubblicano per il Congresso, contro il 41% per i democratici. Ma quanto si è appannata la stella del presidente Obama, arrivato alla Casa Bianca solo 2 anni fa, sull'onda di uno slogan di speranza, Yes We Can? Sergio Nava lo ha chiesto a Guido Moltedo, giornalista e saggista, autore del libro Barack Obama, la rockstar della politica americana. Io penso che Barack Obama, per paradosso, sia impopolare per le ragioni per cui era popolare durante la campagna elettorale. Cioè lui sta facendo esattamente quello che ha promesso di fare di fronte agli elettori. Questo è abbastanza singolare per un uomo politico, se uno ci pensa bene. Cioè lui ha investito tutto il suo patrimonio di popolarità per fare delle riforme che altrimenti nessuno avrebbe potuto fare. Basti pensare a quella sanitaria che fu un fallimento per Bill Clinton negli anni 90. Quindi io penso che lui abbia consapevolmente sufficientemente investito, diciamo, questo suo patrimonio di popolarità per fare delle riforme che sono dure da digerire. Dopodiché è chiaro che è l'altro grande fattore per cui veramente ci vorrebbe la bacchetta magica che lui non ha e però probabilmente gli attribuiscono di avere, che è la situazione economica, di cui probabilmente neppure qui in Italia ci rendiamo conto della gravità e del fatto che sembra che sia una situazione senza speranza. Questo è quello che avvertono molti americani. E ovviamente, come sempre accade, è il presidente che diventa il punto di attacco. La cronaca dall'Italia: proseguono in un susseguirsi di colpi di scena le indagini per accertare la verità sul delitto di Sara Scazzi. Stamani c'è stato un nuovo sopralluogo nella villetta dei Misseri. La madre di Sabrina è stata poi nuovamente ascoltata e nella villetta si cercava, ma non si sa se sia stata trovata, la corda con la quale Sara sarebbe stata uccisa. Una cosa è certa: davanti alla villa c'è ancora la ressa di fotografi e giornalisti che seguono questa inchiesta forse troppo e sicuramente con troppa morbosità. Al ruolo dell'informazione in questa vicenda era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Delitto di Avetrana: secondo voi le televisioni stanno esagerando? Sì, avete risposto per il 93%, no per il 7%. Ancora cronaca da Milano: brutte notizie dai medici questa mattina sulle condizioni di Luca Massari, il tassista aggredito per aver investito accidentalmente un cane senza guinzaglio. L'uomo, si legge nel bollettino medico, sarebbe in coma profondo e le lesioni cerebrali sono irreversibili. Restiamo a Milano adesso per parlare però di maltempo, della neve che verrà. Sono stati presi dei provvedimenti preventivi in considerazione degli ingorghi e dei disagi degli anni scorsi ed è polemica. L'ordinanza sarà in vigore dal 15 novembre al 31 marzo sui 900 km di strade provinciali milanesi, ma non sulle statali. Per i trasgressori 78 euro di multa, ma nei casi più gravi anche sottrazione di punti e fermo del veicolo. Giovanni De Nicola, assessore ai trasporti della provincia. È veramente terribile ipotizzare e ripetere le esperienze dell'anno scorso, dove per l'irresponsabilità, io dico, di qualcuno, non solo si paralizzano intere strade, ma si paralizzano i centri urbani. Ma quanto costerà agli automobilisti? Ad un gommista abbiamo chiesto di quantificare la spesa per un'utilitaria. Tutto compreso viene intorno ai 320 euro. Prezzi che possono salire fino a 1000 euro per auto di grossa cilindrata. Se invece preferite le più economiche catene, in questo caso ce la si può cavare con 50 euro, controllate che la vostra auto le possa montare su alcuni modelli. I cerchi in lega sportivi non lo permettono. Un provvedimento che non servirà a far cassa, niente multa infatti per chi viene pizzicato senza gomme invernali o catene quando splende il sole. Marco Subert, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio con la Champions: dopo i dolori di ieri, oggi tocca all'Inter. In diretta Dario Ricci. Dario. Sì, buongiorno, toccherà all'Inter stasera a San Siro provare a riscattare la serataccia delle italiane in Champions. Nerazzurri che ospitano il Tottenham di Londra, ancora qualche dubbio di formazione per Benitez che potrebbe provare a recuperare Pandev e allora è ballottaggio tra Coutinho e Biabiani per capire chi lascerà il posto al Macedone, ma a sorpresa potrebbe essere recuperato anche Cambiasso, pronto al rientro. Dicevamo, all'Inter tocca riscattare la serata no di Milan e Roma. Ieri rossoneri battuti per 2-0 dal Real Madrid di Mourinho, Cristiano Ronaldo e Özil, ma soprattutto dominati. Al Bernabeu non c'è stata partita, così come non c'è stata sfida e la cosa suona ancora più preoccupante all'Olimpico tra Roma e Basilea elvetici che hanno vinto per 3-1 e dalle tribune sono piovuti fischi sui giallorossi di Claudio Ranieri, che sembrano davvero la brutta copia della squadra che seppe sorprendere appena un anno fa. Per il momento è tutto. Grazie Dario, è tutto anche per questa edizione. Adesso c'è Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.